tutte e tutti. Il corteo da Napoli non è partito da moltissimo, abbiamo attraversato le strade del centro, c'è un sacco di gente, adesso non riesco a quantificarla perché non ne vedo la fine dal punto in cui sono in questo momento, però c'è tanta gente. Il corteo in questo momento si trova sotto il palazzo della provincia, dove sono state lanciate delle uova con la vernice, e adesso anche alcune torce che volano verso i balconi. Senti, una domanda, è un corteo unitario, nel senso ci sono disoccupati, Cobas, sì, studenti, vero? Sì, ci sono disoccupati, ci stanno i ragazzi che stanno dando vita alle proteste a Tersigno. E è un corteo unitario, come unitaria è stata ieri l'assemblea, ieri gli studenti che avevano occupato la facoltà della Federico II di Lettere, dopo aver lasciato il palazzo giovedì, di lunedì sono andati a occupare il cinema Astra, che la mattina funge anche da sede per fare le lezioni dell'università. E quindi ieri si è svolta questa assemblea nel cinema Astra occupato, un'assemblea a cui hanno partecipato lavoratori del mondo dello spettacolo, hanno partecipato i compagni Tersigno, hanno partecipato i lavoratori dei Cobas. È stato davvero un bel momento di discussione con veramente una marea di gente, un sacco di gente ieri, un sacco di gente oggi. Queste sono le prime cose che possiamo cominciare a dire come bilancio di questa giornata. E già sono ottime. Dico, senti, situazione tranquilla, quantità di forze dell'ordine e tensione, no? Allora, la polizia è tanta, anche lo spiegamento della Digos che ha avuto questa mattina nei confronti di alcuni compagni anche un atteggiamento molto intimidatorio, perché quello che temono è non sapere il percorso del corteo, è la cosa su cui in questo momento, diciamo, c'è maggiore tensione da parte della questura. Per il resto il corteo è molto molto tranquillo. Benissimo, guarda, vi auguriamo un proseguimento così felice come ce lo descrivi di questa manifestazione numerosa, e ovviamente ci riaggiorneremo magari prima del GR dell'ora di pranzo o immediatamente qualunque cosa dovesse accadere. Va benissimo, buona grazie. Manifestazione. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.